Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. Il terzo orgasmo, rubrica di cultura letteraria lesbica femminista, presenta breve racconto di una interminabile notte. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. I can explain. Mi piace ballare. Voglio andare a ballare. Cosa c'è di meglio per scaricare un po' di tensioni che buttarsi in mezzo a una pista, agitarsi, scomporsi, sudare, sorridere a chiunque ti sorrida, bere e lasciarsi andare un po' stupidamente sulle note di "Quanto è bello far l'amore da Trieste in giù" della mitica Raffa Nazionale. Per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste. È sabato. Al circolo non si balla di sabato, ma ho voglia di ballare. E con la solita compagnia si decide di andare alla serata a Kindergarten. Non ci sono mai stata, ma so che il locale offre più sale, donne, uomini, mista e anche vari tipi di musica. Non vogliamo farci mancare niente. Vai, si parte. Guido io. Peppe, seduto accanto a me, mi indica qualche scorciatoia. Al, seduto dietro, è intento come sempre a rollare una canna, ed io spero tanto che non dia fuoco alla tappezzeria. Tony, accanto a lui, parla del suo film. A parere suo, i suoi costumi erano più belli e doveva vincere lui, il David. Io penso a dove sto andando. Kindergarten. Cosa vuol dire? Non sono brava con le lingue. All'estero mi faccio capire perché ho imparato a mimare alla perfezione le richieste essenziali. Ma la traduzione qui non è difficile. Kinder, bambini. Garden, giardino. Semplice. Giardino dei bambini. Arrivo alla mia traduzione, dettata dal mio lavoro. Giardino d'infanzia. Bello, no? Poetico. Ma sì, penso. In fondo, restiamo tutte un po' bambine in certe situazioni. Arriviamo. E dopo aver lasciato 3 euro a una tipa che dice sarebbe rimasta lì fino alle 4 a sorvegliare la macchina, ci incamminiamo verso il giardino. Di fronte a noi una fila lunghissima, ma sembra che scorri velocemente. Ecco, ci mettiamo in fila. È buio e non si riesce a vedere chi sta davanti. Siamo in fila per due, proprio come si fa a scuola, e c'è una curva che ostacola la visuale. Dietro di me sento due voci. Amo, come stai? Te vedo stanca. Senti, guarda, non mi di niente, eh? Lunedì c'ho l'interrogazione e non so un cazzo. Vabbè, amo, non c'è pensà. Mo stiamo qua e se divertimo un po'. Poi quell'inconfondibile suono di risucchio umido che rimanda ad un bacio. Mi volto con discrezione. sono due ragazzine di meno di 20 anni, mano nella mano. Mi giro e chiedo a Dalla di farmi fare un tiro della sua canna. La fila scorre davvero velocemente e siamo già all'entrata. Non mi soffermo a guardare, benché sia pieno di gente. Andiamo alla cassa e poi subito al guardaroba, che si trova al piano inferiore. Risaliamo e ci fermiamo in una sorta di luogo crocevia dove c'è una fontanella. Peppe mi dice: se dovessimo perderci, ci ritroviamo qui. Io mi chiedo: ma perché mai dovremmo perderci? Sostiamo davanti alla fontanella per qualche minuto. Ora posso avere una visione chiara di chi affolla questo posto. Davanti a me passano orde di giovani schiamazzanti, spuntano da ogni parte e spariscono chissà dove per fare posto ad altre orde giovanili. Andiamo al bar. La mia solita vodka lemon. La bevo velocemente e devo dire anche un po' nervosamente. C'è qualcosa che mi impedisce di buttarmi nella mischia, ma a bicchiere vuoto si decide di andare nella sala mista. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. For money, and any old music will do. I'm your private dancer, a dancer for money. Ecco, ci siamo. In sottofondo Tina Turner, su un cubone, quattro ragazzi a torso nudo con pantaloni di pelle nera aderentissimi che si dimenano. Tanta gente, troppa. La musica intanto prosegue. Madonna, Jennifer, Britney. Io di solito mi scateno come una pazza, soprattutto su Britney quando canta Slave, ma stavolta sono lì, quasi immobile. Mi sforzo di muovere le gambe, di dare un senso a quella musica, ma niente da fare. Resto come un pezzo di marmo. Anche i miei compagni sembrano non divertirsi. Hanno una staticità non consona a loro e al posto dove ci troviamo. E allora decidiamo di andare fuori a fumare. Siamo in un corridoio che, per la verità, a me sembra un girone dantesco. Peppe mi indica quali sono le altre sale, quella delle donne, quella degli uomini. Io non ci capisco niente. Mi sembra, anzi, è un labirinto. E ora comprendo il perché del darsi un punto di riferimento dove trovarsi. Percorro quel corridoio anelando l'uscita. Davanti, dietro, di fianco a me, ragazze e ragazzi uguali, stessi abiti, stesso trucco, stessi capelli, stessi brufoli. Ancora un po' e siamo fuori. Manca una rampa di scale. Ecco, ci siamo. Ma dove sono? Fuori più gente che dentro. Ma quanti sono? Da dove sono usciti? E dove rientreranno? E soprattutto, quanti anni hanno? Mi sembra di essere all'uscita di un liceo. Cerchiamo un posticino un po' appartato. Lo troviamo finalmente. Ci sediamo e Al rolla un'altra canna. Siamo lì, seduti, senza dire una parola. Siamo lì, immobili, a guardare ciò che non siamo più. Vicino a noi si siedono due ragazze e un ragazzo. Insieme, vi assicuro, non fanno più di 60 anni. L'odore della nostra canna arriva alle loro narici. Non dovrebbero scandalizzarsi, è solo una canna. Probabilmente anche loro ogni tanto ne fumeranno una. Noi continuiamo a fumare e dopo qualche secondo mi giro verso di loro. Sono a testa bassa, in circolo, intenti a far qualcosa. Incuriosita ma con discrezione osservo le loro mosse. Ad un tratto le tre teste si alzano e, poggiata su una rivista di moda, vedo una striscia di polvere bianca sottilissima. Quella polvere bianca da lì a poco sarebbe arrivata alle loro narici. Mi volto e do un malinconico e triste tiro alla nostra ormai desueta canna. Senza entusiasmo decidiamo di rientrare. Attraversiamo quei corpi e quelle facce, risaliamo la rampa e siamo di nuovo dentro. Mi sembra che ci sia più gente di prima e mi sembra che siano sempre più giovani. Torniamo al bar, un'altra vodka lemon. La bevo sempre più velocemente, sempre più nervosamente. Vorrei andare via, tornare a casa. Vorrei il mio gatto. Invece Peppe, annoiato, mi invita ad andare nella sala techno. Qui c'è meno gente e cerco di farmi prendere dal ritmo martellante e ripetitivo della musica. Niente da fare. Le gambe sono due blocchi di cemento. Di fianco a me un tipo. Si avvicina. Ma che vuole? Faccio finta di niente. Diamine, si vede che è lì non certo per ballare. Ma che cavolo, si vede benissimo che io non sono lì per farmi rimorchiare. Si avvicina sempre di più, ancora di più. Ad un tratto mi prende per un braccio e me lo ritrovo appiccicato addosso. Eh no, è troppo. Lo spingo via violentemente, non senza averlo appellato in vari modi. E vi assicuro, questi modi non erano gentili. When you were sick,

guardo un po' meglio e ci metto un secondo a capire che non sono donne, sono bambine. Vorrei tornare indietro, basterebbero due passi per uscire senza che nessuna se ne accorga. Invece resto. Non ci faccio una bella figura a ritornare così repentinamente. Avanzo nella sala restando ai bordi. Ora sono tutte nitide ai miei occhi. Potrebbero essere tutte quante delle mie ex alunne. Sono ferma a guardare, non sento la musica, ma c'è la musica. Sono ferma a fissare quei vestiti, quei corpi, quelle facce. Cerco tra loro qualcuno che mi somigli un po'. Cerco una ruga, un capello bianco, un qualcosa che mi faccia dire non sono l'unica. Ad un tratto sento degli sguardi su di me. Due ragazzine abbarbicate l'una sull'altra mi stanno guardando. Poi altre due e altre ancora. Sembra che tutte mi stiano guardando. Una domanda atroce mi assale. Che penseranno di me? Mi pare di sentire le loro vocine. Oh, e questa? Ma che se guarda? Ma che è venuta a fa? Per me sta a cercare qualche pischella da rimorchià. An vedi sta babbiona? Sì, sono sicura che stanno pensando questo. Che faccio? Devo trovare una soluzione. Avanzo sempre ai bordi della sala e quasi senza accorgermene comincio ad assumere una camminata particolare e a guardare la sala con aria severa, evitando gli sguardi. Decido di assumere la postura e lo sguardo tipico di chi è lì per controllare, per accertarsi che tutto vada bene. Una sorta di bodyguard, di buttafuori, che ne so, insomma, una che non è certo lì per fare la guardona o la descatrice di minorenni. Non so se funziona, ma così facendo mi dirigo verso la tenda. Vorrei allungare il passo, correre verso quella tenda, ma non mi sembra proprio il caso di farlo. Continuo ad avanzare, mani dietro la schiena, passo deciso e pesante, sguardo impassibile. La tenda è sempre più vicina, mi sembra di arrancare. Ecco, ci sono. La tocco, la sposto. Sono fuori! Sono salva! Sono distrutta. Mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' piccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop. Senti com'è fetta questa lametta. Da destra verso il centro, dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che nesto, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Senti come taglia questa canaglia, ma che bottiglia. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Dammi, dammi, dammi, dammi, dammi una lametta che mi taglio le vene. Mi faccio meno male del trapianto del rene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene. che mi sgarro le vene. Mi avvicino a Peppe e non devo avere proprio una bella faccia. Sembro Robocop quando gli dico «vado al bar». Lui mi segue senza far domande, non c'è bisogno di dire nulla, è talmente tutto chiaro. Un'altra vodka lemon. Stavolta la bevo lentamente, quasi rassegnata. Sono come anestetizzata. Non vedo più nessuno, non guardo più nessuno. In sottofondo sento la voce della raffa nazionale che canta «Quanto è bello far l'amore da Trieste in giù». Mi giro verso Peppe e gli dico «Andiamo via». Torniamo per l'ultima volta nel girone dantesco a ripescare gli altri due. Li troviamo, anche loro senza verve, annoiati e disturbati. Scendiamo nel guardaroba. Ritorniamo su e affrontiamo per l'ultima volta quelle orde di giovani schiamazzanti, deliranti, fastidiosi, aberranti. Finalmente siamo fuori. Non mi volto, non dico una parola. Mi lascio dietro quel giardino d'infanzia e mi incammino verso il viale del tramonto. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Allora, innanzitutto buonasera. Quello che avete ascoltato è un breve racconto di un'esperienza vissuta da me, che ho voluto appunto condividere con voi. Qui in radio stasera con voi eravamo Nancy e Genziana. Vi ringraziamo per averci ascoltate e vi diamo appuntamento con la trasmissione del Terzo Orgasmo a martedì 12 aprile. Come sempre approfitto per invitarvi, se volete passare una serata piacevole, al Quesbilè, presso il CFS in via San Francesco di Sales 1B, ogni venerdì alle ore 21. Ora i nostri saluti e, come sempre, l'inno alla luna di Alina Orlova. A martedì 12 aprile. Ciao a tutte. O mėnulį daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O mėnulį jie gyvena elniai, jų nenumuša mašinos. Kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats sau nojus, ten visai nereikia skėčių. O mėnulį yra drakonų, jos paglostyti gali.